Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.10. Oggi giochiamo a golf, ci state? Allora entriamo un po' nell'atmosfera. Guardi come prova lo swing, sembra quasi che stia cercando qualcosa, poi lo trova. Fa in modo di mettersi in contatto con se stesso. Trova la concentrazione e ha tanti colpi fra cui scegliere. Un duff, un top, uno scull. Ma c'è soltanto un colpo che è in perfetta armonia con il campo. Un colpo che è il suo. Un colpo autentico. Ci sei solo tu, quella palla, quella bandiera e tutto ciò che sei. Dalla leggenda di Bagger Vance, dottor Confalonieri, bentornato. Eh sì, siamo proprio entrati nell'atmosfera del golf, il campo, il rapporto con se stessi, quindi uno sport ecologico, uno sport pieno di filosofia e che probabilmente affascina anche e soprattutto per questo, però forse anche uno sport a 360 gradi, quindi uno sport davvero. Ne parliamo oggi insieme al dottor Vedana di Start Performance Italia, dottore in scienze motorie e preparatore atletico di golf. Buongiorno anche a lei, quindi è uno sport vero. Buongiorno a tutti, certo che è uno sport vero e per poter godere appieno delle sensazioni magnifiche che questa disciplina dà bisogna anche avere una condizione fisica di base minima. Per fare questo bisogna seguire un workout di esercizi e per avere una condizione che ci supporti ad ottenere il massimo del nostro piacere durante questa attività. Quindi ci vuole anche il fisico. Ci vuole in parte fisichino, il fisico, sì. 800 24 00 24, sport per tutti o per pochi. Sicuramente ai presidenti, ai politici, ai leader piace da sempre, soprattutto in America. Il golf sta conquistando strati sempre più larghi di praticanti, proprio lì dove un tempo si cimentavano esclusivamente le elite. Mazze, palline e green fanno comunque parte delle abitudini di molti grandi della terra. Il presidente degli Stati Uniti, ad esempio Barack Obama, è un appassionato di golf e sempre pronto a sfruttare nei momenti liberi il green della Casa Bianca, fatto costruire a suo tempo dal presidente generale Dwight Eisenhower. Gioca spesso in compagnia del suo vice, Joe Biden, anche se mostra uno swing piuttosto incerto e non può essere considerato un esperto di questo sport. La sua prima passione rimane il basket. Nulla a che vedere con il fanatico Eisenhower, inserito in maniera postuma nella World Golf Hall of Fame, ma nemmeno rispetto a John Fitzgerald Kennedy, forse il migliore dei presidenti golfisti. Si esercitava spesso nel putt, anche prima di salire sull'Air Force One, il presidente Ronald Reagan, mentre hanno giocato varie volte insieme due ex leader americani, George Bush Senior e George Junior, padre e figlio. Anche se W si appassiona di più col baseball e il football americano e gioca a golf molto meno di Obama, che questa estate ha fatto una partita con il sindaco di New York, Michael Bloomberg, nella tenuta di Martha's Vineyard. Così scrive Massimo Donadio, giornalista del Sole 24 Ore, che lavora al sito www.soleventiquattrore.com, per il quale coordina la sezione sportiva. E allora gli ho chiesto di scendere, noi siamo vicini, ed è qui in studio con me. Massimo, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senti Massimo, dal tuo articolo abbiamo parlato, abbiamo sentito dell'America, ma in Europa le cose sono diverse, o meglio possiamo dire che tra i leader politici del vecchio continente il golf non c'è un feeling così spiccato come per i colleghi americani? Ma no, possiamo dire di no, perché in Europa permangono comunque delle tendenze di privilegio per gli sport di massa, per il calcio soprattutto, come sappiamo, che attira ancora le folle e anche i capi di Stato che quando arrivano i momenti degli europei, dei mondiali, si fanno vedere sempre accanto alla squadra del cuore, vedi Angela Merkel, José Zapatero, insomma tutti i leader principali europei seguono molto di più il calcio, anche se chiaramente il Regno Unito è un paese, diciamo il paese fondatore, possiamo dire, del golf, anche se c'è una disputa con l'Olanda, e quindi in quel contesto e anche nel contesto dei paesi del Commonwealth c'è comunque grande attenzione al golf, e in ogni caso la Ryder Cup, la vittoria dell'Europa nella Ryder Cup recente testimonia che effettivamente l'Europa ha le sue carte da giocare. curioso, se vogliamo anche spingerci fuori dall'Europa, l'atteggiamento dei leader politici extraeuropei, quindi americani e anche asiatici. Ad esempio è curioso il fatto che nei paesi comunisti c'è un certo fermento su questo sport, dai, nel bene e nel male. Sì. Infatti, in un certo senso, il presidente del Venezuela, Chavez, ha diciamo legato in maniera forte, diciamo, la sua immagine a una campagna contro il golf, proprio perché il golf rappresenta uno sport borghese, uno sport di tendenza americana, e quindi diciamo la sua filosofia è quella di asfaltare tutti i campi da golf e costruire alloggi popolari. Ecco, questo un po' per intenderci cosa succede in Sud America. D'altra parte, a Cuba, con il governo di Raúl Castro, quindi con dei segnali di allentamento, forse staremo a vedere, della dittatura, invece ci sono già degli accordi perché investitori stranieri, spagnoli, canadesi, inglesi, vadano a investire appunto nell'isola per farne un paradiso del golf. Quindi ci sono delle tendenze molto molto particolari. Ecco, una cosa molto curiosa, se vuoi posso anche raccontarti, riguarda il dittatore coreano della Corea del Nord, il quale sui media sempre molto attenti alle vicende della tra virgolette casa reale coreana, appare come un campione assoluto di golf, e questo uomo che noi vediamo poco, raramente, insomma, in televisione, qualche immagine rubata, secondo i media di Pyongyang, praticamente è meglio di Tiger Woods. Veramente? Sì, assolutamente, perché loro dicono, scrivono tranquillamente, che è stato in grado di segnare in una partita ben 5 hole in one, vuol dire buche con un colpo solo, che neanche Tiger Woods ha mai fatto, ovviamente. Ma sarà vero? Ma probabilmente no, ovviamente, anche perché in Corea c'è soltanto un campo da golf, ecco, quindi ti fa capire quanto possa essere vero quello che raccontano questi media. In ogni caso lo dicono e noi lo riportiamo. Ma quanto sono bravi quelli del Sole. Dottor Confalonieri aveva la mandibola. Senti, però. Sì, nel senso che ero ammirato per tutte le informazioni su tutto il panorama mondiale rispetto al golf, che comunque, vedete, non è soltanto nicchia, almeno mi sembra, ma è un fenomeno sociale con caratteristiche diverse da un paese, da un continente all'altro. Ma credo davvero che sia sbagliato chiamarlo sport di nicchia, no? Credo che sia un fenomeno socialmente ed economicamente importante. Senti, io volevo intanto leggere, ci sono alcuni messaggi. Ad esempio, se ci vuole fisico, dottor Vedan, io ho detto ci vuole fisico, almeno fisichino, mi chiede un ascoltatore come mai alcuni campioni hanno la pancia. Ma questo forse fa parte dell'immaginario di qualche anno fa. Attualmente i migliori e più emergenti, quelli che hanno un trend positivo, sono comunque tutti degli atleti, quindi sono dapprima degli atleti e poi successivamente degli ottimi giocatori, perché comunque per ottenere uno score corretto, per avere un ranking ottimo, bisogna avere un minimo di efficienza fisica, perché la cosa importante è riuscire ad essere costante nel gesto per tutto il torneo. Quindi se il singolo gesto non è così difficile dal punto di vista atletico, non dal punto di vista tecnico, quindi non è così difficile dal punto di vista atletico, bisogna cercare invece di mantenere questo gesto continuamente costante per tutta la durata del torneo, ed è qui la sfida quindi della preparazione atletica ad alto livello. Dottor Confalonieri, lei gioca a golf? No, però sono attratto, potrei cominciare magari dopo la trasmissione di oggi. Io volevo chiedere a Massimo anche di darci qualche numero del golf, perché per molti il golf rimane, lo leggo dai messaggi, alcuni lo descrivono addirittura tra i messaggi un passatempo da ricchi, però insomma muove a proposito di ricchi tanti tanti soldi, Massimo. Sì, senz'altro. Effettivamente nell'immaginario collettivo è stato rappresentato sempre così. Le cose stanno però un po' cambiando, perché per una serie di motivi, innanzitutto per motivi anche mediatici, e sappiamo che soprattutto le vittorie dei fratelli Molinari stanno dando un nuovo entusiasmo, diciamo, al movimento. Dall'altra parte anche perché ci sono degli avvicinamenti anche da parte di questo mondo, anche economicamente, ai praticanti che devono iniziare. Possiamo dare qualche dato in questo senso. Una recente ricerca ci dice che negli ultimi 10 anni la quota dei tesserati in Italia è aumentata dell'81%, quindi sono numeri significativi. Del 142% è aumentato il numero dei campi pratica, anche questo è un dato forte. Giocano molto le donne, nel senso che si stanno avvicinando a questo sport le donne, anche i giovanissimi. Se vogliamo parlare, diciamo, di strutture, ecco, negli ultimi 10 anni sono nate 125 nuove strutture in Italia, non sono poche, che ovviamente danno anche lavoro, quindi impiegano potenzialmente 4.000 persone. Se invece aumentiamo ancora il nostro raggio di indagine all'Europa, all'Europa mettendoci insieme anche Medio Oriente e Africa, una ricerca di KPMG, vediamo che il golf in questo ambito, di questa parte di mondo, vale 53 miliardi di euro. Per fare un attimo una scala che un po' tutti possano capire, contribuisce all'economia globale in un solo anno il golf, in questo settore del mondo, tanto quanto le ultime 6 Olimpiadi, eccetto Pechino. Quindi un anno di golf in Europa e Medio Oriente, Africa, ovviamente sono numeri più ridotti, equivale a 6 Olimpiadi tutte insieme dal punto di vista economico. Sono dati che fanno riflettere. Che fanno riflettere e lasciano a bocca aperta anche il nostro dottor Confalonieri. Sì, questi proprio non me li sarei aspettati, e siccome uno degli obiettivi della trasmissione di oggi è anche invitare la gente che non ci ha mai pensato a provare a giocare a golf, oggi lancerei una domanda che è quasi un concorso ai nostri ascoltatori. Cioè, coloro che giocano a golf ci piacerebbero che ci mandassero, ci telefonassero proponendoci uno slogan per invitare qualcuno a provare il golf la prima volta. Vediamo alla fine della trasmissione quale sarà lo slogan più bello per portarci sul green. Perché lo sport, cioè il golf, appassiona sempre più persone, anche insospettabili, anche persone che praticavano altri tipi di attività sportiva. Ho letto che molti grandi calciatori sono diventati golfisti. Dottor Vedana, come mai c'è questa passione, questo naturale cambiamento? Dal campo da calcio molti passano poi al campo da golf, c'è qualche, eppure non penso sembrano che avere nulla, no, in comune questi due sport. Sì, penso che la migrazione di sportivi professionisti dalla propria attività professionale a quella del golf come attività di relax, penso, e comunque di è un'attività che ti permette di entrare con una dimensione del tempo differente rispetto ai tempi che hai sempre tu dovuto rispettare in maniera così precisa, con tempi non tuoi, che è tipico degli sportivi professionisti, mentre nel golf hai tutto il tempo che necessita per poter esprimerti e per poter esprimere anche il tuo gesto. E quindi penso che questo sia l'aspetto che faccia leva maggiormente per questa migrazione nell'ambito, quindi dal professionale all'ambito proprio del tempo libero e del tempo dedicato a se stessi. Questo è un po' il segreto. Abbiamo sentito quanti soldi muove il golf leggiamo anche dagli sms dei nostri ascoltatori che appassiona davvero tanto, anche insospettabili. In linea con noi Valerio Staffelli. Ciao Valerio, grazie. Grazie a te, come stai? Ma io sto benone. Ma senti, io volevo proprio sapere di questa passione per il golf, passione. Stregato dal golf, insomma. È molto di più, è un amore folle. Guarda, che ho scoperto 4-5 anni fa e quindi sono letteralmente innamorato. Poi insomma, l'Italia è un posto straordinario, ha campi da golf dappertutto, è veramente bellissimo. Poi lo sport, guarda, giochi contro te stesso, è letteralmente entusiasmante per tanti motivi. Senti Valerio, però è uno sport difficile, tu sei un atleta perché hai provato tanti sport e c'hai il fisico, però molti dicono, insomma, non è uno sport alla portata di tutti, è così difficile? Dire che è difficile, no, non è proprio così difficile, nel senso che è bello perché non è sempre uguale, cambiano i campi, cambiano le buche, cambia il tuo gioco, cambia il tuo swing, che è il movimento che si fa per prendere la palla, però è proprio in questo il fascino. Senti, tu è proprio tutta una terminologia molto d'addetto ai lavori, Guarda, quando mi sono innamorato di questo sport ho avuto la fortuna di conoscere i responsabili di Golf e Turismo, che è la rivista di golf più forte d'Italia, e mi hanno proposto di fare una rubrica. E io gli ho detto: guardate ragazzi, io non sono appena iniziato. Alessandro Zonca, il grande capo, mi ha detto: guarda Valerio, fai questo, cioè tu sei un golfista, vai in giro e racconti quello che trovi. E così abbiamo creato questa rubrica per Golf e Turismo, e ogni mese io giro per l'Italia e provo i circoli come un neogolfista, quindi racconto quello che trovo, non avviso che arrivo, e in staffellese raccontiamo come va la nostra giornata golfistica, insomma, provando il ristorante. Insomma, una vita difficile, Tra un tappiro e l'altro mi porto la sacca da golf e mi tiro nei campi e provo. No, è difficile, è bello, sì. Perché ho visto campi straordinari, guarda, dalle Dolomiti alla Sicilia. Senti, che voto ti dai? Che golfista sei tu? Guarda, io oggi gioco 14 di handicap, quindi sono a metà strada. Devo dire che in 5 anni, grazie alla mia predisposizione allo sport, ho fatto balzi da gigante. Senti, tu mi hai detto, mi porto tra un tapiro e l'altro, mi porto dietro la sacca e vado a giocare a golf. E quindi il tapiro ce l'hai sempre pronto, a chi lo daresti? C'è un profilo, tipo, almeno così si pensava, di chi gioca a golf, po' puzzone, po' snobbettone, adesso un po' è cambiato, io vero? Io li definisco i puzzoni, mi piace definirli così, perché nel golf ogni tanto li trovi, sono quelle persone arroganti che vogliono che questo sport rimanga per pochi, che non venga diffuso, che sia uno sport d'élite. Oggi ti assicuro, il golf non è uno sport costoso. Se uno vuol fare dello sport, ti assicuro, oggi il golf si può considerare uno sport alla portata di tutti. Oggi ci sono un sacco di giovani che lo praticano, abbiamo dei grandissimi campioni, tra cui Molinari, che ci hanno fatto vedere una Ryder Cup straordinaria. Avremo tra poco con noi proprio Edoardo Molinari. Un grandissimo. Lo so, è di Torino. Senti, quindi attenzione puzzoni sui campi da golf, perché vi potreste trovare un papiro tra le mani. Assolutamente, tapiro in agguato sempre, anche nei campi da golf. Grazie. Grazie a te. Ti abbraccio, buon golf allora. Ciao cara, sì, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Dottor Confalonieri, il tapiro lei non se lo prenderebbe, però... No, come atteggiamento sicuramente no, forse come incapacità, ma magari neanche come incapacità. No, direi proprio che sottolineare un aspetto della chiacchierata di Staffelli, cioè il fatto che per molti, quando cominciano, il golf diventa una droga quasi più degli altri sport, cioè è uno di quegli sport, ne abbiamo parlato altre volte, che crea più rapidamente, in modo più forte, dipendenza. E magari su questo vorremmo sentire anche qualche ascoltatore, perché in effetti spesso si comincia con un po' di scetticismo e poi si rimane prigionieri della magia di questo sport. Vi aspettiamo dopo i mercati e il meteo con Edoardo Molinari. A tra poco! Eccolo qui il vincitore del Johnny Walker a Gleneagles, seconda vittoria in Scozia, il re di Scozia, Edoardo Molinari. Francesco ha giocato tutto per il tutto, terzo pari merito. Lui in Ryder Cup, e adesso c'ha un'ora per prendere la decisione il signor Colin Montgomery, capitano, se ripescare con una wild card Edoardo in grande forma. Vale la coppa il mezzo punto di Edoardo Molinari, che dopo l'inizio tutto in discesa del match contro Ricky Fowler sembrava un mezzo punto perso. La rimonta del giovanissimo esordiente americano aveva lasciato di sasso Edoardo, ma alla fine è stato proprio il suo match pareggiato, il penultimo in campo, a riportare la coppa in Europa. Dalle telecronache di Sky adesso saltiamo di nuovo a Radio 24, perché in linea abbiamo Edoardo Molinari. Ciao Edoardo. Ciao Nicoletta, ciao. Senti, tu non sai quanti punti mi farai guadagnare tra i miei ascoltatori appassionati di golf. Insomma, il mio handicap si abbasserà molto. Grazie e complimentoni. Poi grazie, ho detto subito, è di Torino. Senti, ma cosa si prova ad essere oggi Edoardo Molinari? Famoso, amato, riconosciuto per strada, fermato per gli autografi, preso a modello da tutti, anche insomma di uno sport che in Italia inizia, no, a diventare di tutti, ma non lo è ancora questa etichetta di sport un po' di nicchia. Ma sicuramente il golf è ancora uno sport un po' di nicchia in Italia, però credo che piano piano la situazione sta cambiando, soprattutto grazie ai risultati miei, di mio fratello, di Manassero degli ultimi mesi, e quindi speriamo che nei prossimi mesi, nei prossimi anni diventi finalmente uno sport popolare come lo è in tanti altri paesi all'estero. Senti Edoardo, ma quando stai per tirare? Hai un rito particolare, un metodo? A cosa pensi, insomma, oppure si deve proprio fare piazza, cioè non si deve pensare a nulla? Ma si deve pensare al meno possibile, sinceramente. Bisogna solo cercare di avere una routine sempre uguale, soprattutto nei momenti di grande pressione, nelle fasi finali dei tornei, e poi avere tanta fiducia nel lavoro che si è fatto a casa e sperare nel meglio. Senti, ma quando guardi la pallina che va, cosa pensi? Cioè, io la spingerei, no, col pensiero, l'accompagnerei un po' come si vede nei fumetti. E sì, quando, cosa succede? Ma una volta che la palla è partita, come dicevo prima, è andata. Poi, tra virgolette, ti fare che la palla vada vicina, però poi c'è tutta una serie di elementi che sono un po' incontrollabili, quindi credo che sia il risultato di tanto lavoro che si fa a casa, sia tecnico che fisico che mentale, e poi una volta che la palla è partita bisogna solo sperare. È andata, no, Edoardo? Senti, ma come si festeggia una vittoria grande come la Ryder Cup? Ma è stato bello, perché comunque la Ryder Cup è un torneo a squadre e noi siamo abituati a fare tornei individuali per tutto l'anno, quindi c'era un'atmosfera molto diversa e abbiamo festeggiato fino a tarda notte tra di noi giocatori, con le mogli, le fidanzate. Grande festa. Sicuramente una grande festa. Senti, ma quando va in vacanza un campione di golf? Quasi mai. Vero? Io adesso farò un po' di vacanza a dicembre, quando finisce la stagione, anche perché poi la stagione ricomincia a metà gennaio con dei tornei nel deserto, a Dubai, a Abu Dhabi, quei posti lì. E quindi bisogna poi prepararsi per l'inizio della stagione prossima, quindi l'unico tempo con un po' di vacanze a inizio dicembre. Senti, non si finisce mai, ma io qua ho tre ospiti che devo dire che sono venuti apposta per parlare con te. Ecco, il primo è il dottor Confalonieri, che viene a trovarci tutti i venerdì. Abbiamo il collega Massimo del Sole 24 Ore, Donadio, che ci ha raccontato un po' anche i numeri delle curiosità dei politici, dei presidenti americani e del golf. E poi abbiamo il dottor Vedana, che è dottore in scienze motorie ma è anche un preparatore atletico di golf. Quindi tre profili molto diversi, e ciascuno di loro ha chiesto, io ho fatto quella che, insomma, per una sorta di parentela, essendo tutte e due torinesi, ho detto sì, potete. Allora, ciascuno una domanda a Edoardo Molinari, che poi lui scappa perché i golfisti non si fermano mai. Dottor Confalonieri, tocca a lei. Sì, innanzitutto complimenti, e volevo sottolineare una cosa che è tornata due volte nelle risposte di Edoardo Molinari, e cioè il riferimento a tutto quanto fatto a casa. Questo è fondamentale, accomuna il golf a tutte le altre discipline. Nel momento della prestazione viene fuori tutto quanto si è costruito con pazienza, in silenzio, nascosti nel lavoro a casa. E questo è molto bello, perché chi si occupa di sport lo ritrova in tutti gli atleti, indipendentemente dalla disciplina. Ecco, volevo fare una domanda molto molto rapida. Forse uno dei vantaggi del golf è che ha poche controindicazioni da un punto di vista medico rispetto a tanti altri sport, che sono piacevoli ma spesso determinano danni o problemi. Ecco, ci sono problematiche specifiche del golf? Tu hai avuto qualche problema, oppure mi confermi che è uno sport con poche controindicazioni? Ma direi che uno sport con pochissime controindicazioni si è fatto a livello amatoriale, nel senso, fatto sabato e domenica, in settimana sono pochissimi gli infortuni a cui si va incontro. Io ho avuto un piccolo infortunio al polso un paio d'anni fa, mi è venuta una forte tendinite, ma che è un problema abbastanza tipico di chi gioca come noi 8-10 ore tutti i giorni. Quindi, fatto a livello appunto amatoriale, non c'è nessuna controindicazione, anzi. È praticamente una passeggiata all'aria aperta di 6-7 km, e quindi fa bene alla salute. Ecco, proprio. Non può che fare bene. Massimo, sì, arriva il sole qua. Innanzitutto complimenti a Edoardo. Volevo chiederti questo, prima una curiosità proprio personale. cosa hai provato nei momenti, diciamo, più tesi della partita contro Fowler. Ti abbiamo visto e abbiamo trepidato con te. Me ne approfitto subito, la seconda domanda è questa. Tu hai avuto un percorso particolare anche con i tuoi maestri, hai iniziato piccolissimo a giocare e hai avuto un itinerario molto bello con più maestri diversi. Ecco, volevo chiederti quanto c'è di questi tuoi maestri nel tuo gioco e quanto invece è un tuo talento puro, sono tue potenzialità pure che si sono espresse. Ma per quanto riguarda la seconda parte della domanda, direi che moltissimo lo devo a tutti, ai due maestri che hanno sempre lavorato con me, che sono Sergio Bertaina, che insegna al Circolo Golf Torino, certo, e che è stato il maestro mio e di mio fratello Francesco fino a quando avevamo 7-8 anni. Certo. E poi negli ultimi anni siamo andati a collaborare con un maestro inglese che si chiama Dennis Pugh, certo, che ha lavorato molto con Montgomery e altri grandi campioni degli ultimi anni, ed è stato sicuramente quello che ci ha fatto fare un salto di qualità. Mm-hmm. Mentre invece la domanda su Fowler, devo dire che le ultime bughe ero molto nervoso, molto teso, perché fino alla 10, alla 11 sembrava che tutti i match davanti andassero bene per l'Europa, quindi non ci fosse bisogno del mio punto, certo, e poi improvvisamente sono crollati in 2 o 3 e allora ci siamo praticamente ritrovati con gli occhi di tutti addosso. Infatti. Ed è stata sicuramente una enorme pressione nelle ultime bughe. Ok. Ma, dottor Vedana, ultima domanda a lei. Sì. Innanzitutto ciao Edoardo, mi associo anche ai complimenti per te, e la mia domanda è un po' specifica su quello che è un po' il mio ruolo, e volevo proprio chiederti quanto dedichi alla condizione atletica durante la stagione e durante la preparazione della stagione, quindi la preparazione che fai un po' lontano dal periodo agonistico. Ma in modo tale che... periodo agonistico ho iniziato a fare una preparazione circa 3 anni fa, seguito dai responsabili di Milan Lab a Milanello, e fuori dalle gare faccio 6 volte a settimana, sto in palestra dove faccio sia una parte di pesi che una parte aerobica che una parte di mobilità, quindi è abbastanza completa come preparazione e devo dire abbastanza pesante anche lontano dalle gare. Mentre invece poi durante le gare passo 3-4 mattine alla settimana sempre in palestra, però faccio più un lavoro di rapidità e di mobilità, appunto, perché poi durante le gare non è molto consigliabile fare tanti pesi, però comunque è un lavoro molto completo che prevede sia parte sopra che parte sotto, che tanti esercizi di equilibrio, di mobilità, quindi è molto completa come preparazione. Edoardo, grazie davvero per essere stato con noi, ti abbiamo aspettato e ti abbiamo proprio, insomma, siamo stati bene. Grazie mille e grazie mille. Un abbraccio, in bocca al lupo per tutto. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Molti di voi mi dicono, sì, ma quanto costa? Salcusta, come si dice a Milano. Vi diremo naturalmente anche quello, a tra poco. Dottor Vedana, certo che è dura essere degli atleti, dei campioni. Beh, abbiamo visto come Edoardo si allena, quindi è veramente un atleta. Devo dire che lei l'aveva già anticipato, no? Aveva fatto proprio questo distinguo netto rispondendo all'ascoltatore che diceva i giocatori hanno la pancia, no? Sì, è interessante anche come Edoardo abbia sottolineato che da 3 anni che sta seguendo un workout ben preciso di lavoro, perché proprio il trend a livello internazionale della prestazione va in quella direzione lì, cioè la parte atletica e la condizione fisica diventa adesso un limite per distinguersi ad altissimo livello. Allora, Edoardo Molinari, abbiamo detto che ci ha proprio detto che cosa fa al mattino, vicino alle gare e meno. Io so che Massimo Donadio anche lui si allena perché lavora, che sale su, vuole salutarci. Cioè, non che non lavoriate anche voi, assolutamente. Grazie. Però essendo lui, dovendo lui salire, io volendo salutarlo, ho dovuto fare questa sorta di passaggio di allenamento. Massimo. Grazie. Grazie Coletta. A te. Torna a trovarci presto. A risentirci. Va bene, grazie. Allora, molti di voi naturalmente ci hanno chiesto, ma quanti soldi ci vogliono per imparare a giocare a golf? Ecco, userei insomma forse giocare proprio, insomma lo stretto necessario per divertirsi. In linea con noi abbiamo Giorgio Bordoni, maestro del Blue Team Golf Academy. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, benvenuto, grazie a voi. Buongiorno. Dopo Edoardo Molinari no, che ci ha fatto sognare, lei ci racconta come, qual è il modo migliore per iniziare, se è tanto costoso, se ci vuole, se bisogna in qualche modo essere portati, se invece è uno sport adatto a tutti e anche ai bambini, se ci sono delle iniziative anche sul territorio nazionale che cercano proprio di avvicinare, come diceva Edoardo Molinari, di farlo diventare da sport d'élite a sport più alla portata di tutti. Iniziamo dal costo. È davvero così costoso il golf? No, mai i prezzi si sono abbassati tantissimo, perché chiaramente sono nati in più campi in tutta Italia e quindi diciamo che c'è più mercato. I prezzi sono abbordabili per tutti e sicuramente il golf costa come qualsiasi altro sport, come qualsiasi altra palestra per fare ginnastica o palestra per andare a fare proprio pesi o qualsiasi altra cosa. C'è un abbonamento, diciamo così, annuale, che può essere anche trasferito mensilmente, ed è come proprio iscriversi a... Possiamo monetizzarlo, eurizzarlo? Cioè, sì, quanto costa? Possiamo dire che comunque un abbonamento totale per chi volesse giocare tutti i giorni annuale si avvicina sui 3.000 euro. Ma questo è chiaramente se uno volesse giocare tutti i giorni, perché ci sono poi abbonamenti infrasettimanali, abbonamenti ai campi pratica dove ci si può allenare, e che si abbassano notevolmente. Un abbonamento a un campo pratica costa sui 500, dai 500 ai 1000 euro. Poi uno che si vuole andare sul campo paga un'entrata giornaliera. La Federazione ultimamente poi ha fatto negli ultimi anni questa promozione in cui un giocatore potrebbe solo comprare la tessera che gli dà il permesso di accedere a tutti i campi del valore di 70 euro, e quindi un giocatore con 70 euro acquista questa tessera e quando vuole va in qualsiasi campo a giocare pagando solo l'entrata giornaliera, che varia dai 50 ai 60, 70 euro, dipende dal campo e dall'importanza e della bellezza del campo. Quindi ormai possiamo dire che il golf è per tutti. Il golf... Se voleva uno slogan, come dicevamo prima. Sì. Senta, ma per iniziare, lezioni individuali, nei campi prova, con lezioni collettive, come posso orientarmi? Ma qualsiasi campo dà un pacchetto iniziale a tutti i giocatori che effettivamente si avvicinano, tutti i neofiti. Di solito si parla di 5 ore di lezione, più l'entrata al campo pratica, più le palline per allenarsi, che varia dai 200 ai 300 euro. Quindi sono cifre abbastanza abbordabili e sicuramente dopo 5 ore di lezione già il giocatore si avvicina al campo, diciamo così, fa le prime entrate nel campo vero. Dopodiché sicuramente avvicinandoti al campo e quindi innamorandosi di questo sport, perché forse le prime 2 o 3 ore sono molto importanti, perché il maestro deve essere così abile da poter riuscire a far innamorare il suo proprio allievo, una volta entrato in campo il divertimento è assicurato. Quindi il giocatore viene preso da questa famosa malattia di cui parlava Staffelli, e con questa malattia poi uno ha voglia solo di giocare a golf, perché è un mettersi alla prova, quindi è una sfida con stessi che fa innamorare di questo sport. Grazie a Giorgio Bordoni, maestro del Blue Team Golf Academy. Buona giornata, buon golf. Grazie anche a lei. Buona continuazione. Dottor Vedana, ma gli inizi sono sempre difficili, no? Ci vuole pazienza, e io avevo provato anni fa e devo dire veramente l'ho trovato difficilissimo, zappavo alla grande. Poi dopo un po' si riesce a superare questo. Sì, il gesto sicuramente è un gesto complesso, è un gesto che necessita una coordinazione fine abbastanza importante, quindi necessità di pratica continua. Non è molto intuitivo all'inizio, però sicuramente si può avere fin dall'inizio delle belle sensazioni, che è quello di sentire la pallina che parte, che è la sensazione che ci fa innamorare, il leitmotiv per l'innamoramento. Dottor Confalonieri, lei proprio ha chiesto a Edoardo conferma del fatto che il golf sia uno sport con pochissime controindicazioni, no? A chi lo suggerirebbe quindi? A tutti, anche ai bambini? Allora, il golf lo suggerirei a tutti, proprio perché è uno sport aerobico, uno sport di resistenza, molto efficace per prevenire per esempio tutte le patologie cardiovascolari che sono le più diffuse. Lo suggerirei ai bambini. A questo proposito, completando anche un po' tutte le informazioni che abbiamo avuto da Giorgio Bordoni, vorrei segnalare che dal 2016 il golf è diventato sport olimpico. E quindi proprio per avvicinare il maggior numero possibile di ragazzi e di bambini alla pratica del golf, adesso la federazione ha avviato una serie di iniziative per cui davvero diventa più facile far giocare golf ai nostri figli e anche molto molto meno costoso. In chiusura vorremmo raccontarvi che il golf si può giocare anche in città, niente prati, usignoli, boschette, miastradi, viuzzi, viuzzine e piazze. È successo a Firenze domenica 3 ottobre durante il Wine Town 2010. Il centro storico si è trasformato proprio in un enorme green e si è giocato quello che ormai si chiama Urban Golf, organizzato e ideato da Golf Italiano, e in linea con noi abbiamo il dottor Donato Ala, direttore di Golf Italiano Web TV e Golf Italiano IT, responsabili di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Ma allora a Firenze avete giocato proprio? Abbiamo giocato, ci siamo divertiti ed è stata un'esperienza davvero straordinaria, perché ha portato, ha avvicinato al golf, ovviamente l'urban golf, chiariamo, non ha niente a che vedere con il golf vero e proprio, perché certo, si gioca, questo è chiaro. Già le palline sono diverse. Sì, non puoi giocare certo con le palline da golf, sennò sarebbe un disastro. Abbiamo giocato con delle palline leggermente più piccole delle palline da tennis e ovviamente leggermente più sgonfie. Questo ha permesso chiaramente di poter andare da qualsiasi parte senza alcun pericolo. Poi nessuna regola internazionale, nessuno standard, cioè un po' più all'acqua di rose. No, guarda, l'Urban Golf ha una sua regola, un suo regolamento, sì, cioè ha un regolamento ben specifico che chiaramente si avvicina a quello del golf, non lo è come quello del golf, anche questo ha un'etica da seguire ovviamente, e devo dirti che quando è nato in Inghilterra, da quando è nato in Inghilterra ha avvicinato moltissimi giovani, soprattutto perché è una cosa un po' strana, no? Andare in una città e poter tirare una pallina in Piazza Duomo a Firenze, no? O passare, insomma, passare in mezzo dei punti impensabili. Quindi ci sono delle regole, per esempio se la pallina viene presa da un cane, no? E te la porta via, ovvio che tu devi inseguire il cane e riprendere la palla esattamente dove l'ha lasciata. Devo salutarvi e chiudere, però è vero che molti degli spettatori andavano a recuperare le palline e le riportavano al giocatore? Assolutamente sì, divertente. C'erano gli stranieri che si ammazzavano di risate? Esatto, cioè si vedevano gli italiani che quando un giocatore tirava la pallina aveva conquistato un punto bellissimo, vedeva qualcuno che si avvicinava, prendeva la pallina e gliela ritirava congratulandosi. Allora io vi saluto, vi ringrazio per essere state con noi, vi ricordo Un Pizzico in Meno, Tanta Salute in Più, l'iniziativa per la riduzione del sale in collaborazione col Mario Negri di Bergamo. Noi ci sentiamo domani per Questa Casa Non È Un Albergo. Dottor Vedana, dottor Confalonieri, buona giornata a voi. Essere e benessere.